Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Il ritorno dello spread, vale a dire del differenziale tra BTP italiani e Bund tedeschi, nei dintorni dei 200 punti base, sta evocando in queste settimane il rischio, alimentato dall'attuale fase di incertezza politica, che si possa riproporre lo scenario che si è verificato nel novembre del 2011, quando lo spread arrivò a toccare il picco massimo dei 575 punti base. E da noi la crisi politica raggiunse il suo culmine con la caduta del governo Berlusconi e l'insediamento a Palazzo Chigi del governo tecnico presieduto da Mario Monti. Per la verità, rispetto al 2011, oggi a protezione dei conti italiani e dell'Eurozona c'è l'ombrello della BCE con il programma straordinario di acquisto dei titoli di Stato che si protrarrà per tutto il 2017. Ma è una garanzia sufficiente a tranquillizzarci in un anno caratterizzato da diverse importanti scadenze elettorali in Olanda, in Francia, in Germania e forse anche in Italia? Ci aiuta a capirne di più un libro appena pubblicato dalla Ruffa Editore dal titolo La battaglia di Bruxelles 2011, viaggio al centro della crisi, scritto dal giornalista Paolo De Luca, che è in studio con noi questa sera. Buonasera e benvenuto Paolo. Grazie, buonasera a te e agli ascoltatori. Allora, Paolo De Luca è stato tra l'altro corrispondente della RAI a Bruxelles ed ha seguito da vicino tutti i passaggi di quel 2011, l'anno della crisi dei debiti sovrani, che ha fatto tremare dalle fondamenta l'intera costruzione europea. Ascoltiamo insieme questo passaggio della conferenza stampa ormai famosa tenuta da Mario Monti e dal ministro del lavoro Elsa Fornero. Era il 4 dicembre del 2011 e il governo aveva appena varato la contestata riforma delle pensioni. E allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito. Posso sì. Interpretare il sacrificio così efficacemente trasmesso dal ministro Fornero, deindicizzazione, quindi il venir meno della indicizzazione all'inflazione per le pensioni. Paolo, dunque momenti drammatici in quel novembre del 2011. Sì, certamente momenti molto drammatici, direi anche resi ancora più drammatici in quella conferenza stampa, era la conferenza stampa in cui venne presentato il decreto Salva Italia, nel quale ci furono appunto le lacrime di Elsa Fornero, della ministra Fornero. Però se devo dire, ricordando un po' quei momenti, il sentimento prevalente non mi sembrava proprio, come dire, il dramma che stava per arrivare, quanto piuttosto una certa speranza anche piuttosto fiduciosa. Cioè sembrava veramente che Monti fosse la svolta, sì, dopo il salvatore dopo 5-6 mesi, sì, veramente sulle montagne russe, e che quindi insomma si aprisse veramente una nuova epoca. Devo dire che poi in parte è anche stato così, nel senso che comunque la situazione dell'Italia è cambiata nel giro di alcuni mesi. Mm. Poi sappiamo come è andata a finire, insomma c'è stato un eccesso di rigore da parte del governo Monti, insomma, che ha provocato in qualche modo più danni. Però secondo me bisogna dare atto a Monti che in quella situazione, certo, con quello spread a 570 non poteva fare probabilmente, sì, altro che quello che ha fatto con tutti, sì, gli errori. In fondo era chiamato a spengere un incendio che rischiava di travolgerci. Ma infatti facciamo un piccolo passo indietro e vediamo come eravamo giunti a un passo dal baratro. Vediamo in sintesi quel che accade nel 2011. Tre manovre correttive verranno varate nel corso del 2011. Due ad opera del governo Berlusconi, la terza del governo Monti. Un volume di interventi pari a 48,9 miliardi nel 2012, che salivano a 81,3 miliardi nel 2014. La prima manovra del governo Berlusconi vede la luce il 30 giugno. Lo spread BTP Bund a metà mese è a quota 330 punti base. La manovra non convince i mercati e parte l'attacco speculativo ai nostri titoli del debito pubblico. Siamo alla vigilia di Ferragosto e il governo Berlusconi è costretto a varare una seconda manovra correttiva, su pressione della BCE e di Bruxelles. La terza manovra, varata dal governo Monti, è imposta dalla crisi. quando il differenziale tra BTP e Bund raggiunge i 575 punti base, nonostante l'intervento della BCE. A giugno eravamo a quota 173 punti, a 366 punti nei valori medi di settembre. I mercati avevano preso a scommettere sull'imminente tracollo dell'eurozona e a farne le spese erano soprattutto i paesi più esposti, come l'Italia, a causa dell'elevato debito pubblico. Allora Paolo, tu scrivi nel libro che il peccato originale della crisi del debito viene individuato nel cosiddetto patto di Deauville dell'ottobre del 2011 tra Angela Merkel e l'allora presidente francese François Sarkozy. Ecco, parliamone un attimo. Sì, dico che è stato il peccato originale perché è stato il momento in cui invece di spegnere, diciamo, l'incendio della Grecia, che era esploso ormai da un anno e a cui si cercava di porre rimedio, fu gettata anche altra benzina, per cui l'incendio poi divampò anche nelle altre, negli altri stati, fra i quali, come ben sappiamo, l'Italia. Perché dico questo? Perché fu lanciato in quell'occasione un segnale sbagliato, un doppio segnale sbagliato sia ai mercati sia alle banche, alle banche private che erano proprietarie di gran parte dei titoli del debito pubblico, certo, dei paesi euro. Quindi per questo dico, il segnale qual era? Era quello di contenuto in una formula che significa in sostanza ristrutturazione del debito greco, cioè il coinvolgimento, esatto, del settore privato. Il cosiddetto patto di Deauville è questo. Esatto, in sostanza era questo. C'era molto altro che poi però ha avuto una storia più lunga, cioè una nuova governance per l'euro, per la zona euro. Certo. Però in questo alla fine si è sostanziato. Perché dico che ha lanciato un messaggio doppiamente sbagliato? Perché ha fatto vedere per la prima volta che un paese euro, anche se di piccolissime dimensioni, poteva andare in default. Infatti poi abbiamo visto nei mesi successivi quello che è successo. Esatto. E in più incentivava in qualche modo indirettamente le banche private a disfarsi di quello che sarebbe diventato, che veniva detto, che probabilmente sarebbe diventata carta straccia nel giro di pochi mesi o al massimo di 3 anni. Quindi è iniziato prima il tracollo dell'Irlanda, la Grecia è precipitata, e poi da dicembre, come ben sappiamo, la Deutsche Bank e altre banche sia tedesche che francesi, poi anche quelle americane, hanno cominciato a dar via i titoli di Stato italiani, i bond decennali, insomma, hanno fatto salire lo spread al punto che ben conosciamo. Adesso veniamo agli aspetti più politici di quel 2011 di cui tu parli in modo molto dettagliato nel libro. Cerchiamo un attimo di ripercorrere insieme, anche se sinteticamente, gli eventi di quell'anno che portarono poi alla caduta del governo Berlusconi. Diciamo, cominciando dalla fine, secondo me il momento nel quale conversero in qualche modo, ma non trovarono una sintesi, tutte le tensioni che si erano accumulate in quell'anno dopo, sì, l'avvio dello spread, è stato il G8 di Cannes, 3-4 novembre, che un po' a mio avviso è un po' il cuore della crisi, perché il mancato accordo su alcuni argomenti centrali in quel vertice, dove c'era anche Obama, c'erano anche gli Stati Uniti ovviamente. C'era quello famoso dei sorrisini. No, quello era stato 4 giorni prima. Ah, ecco, era un, esatto, vertice europeo a Bruxelles, quello. Era un primo passaggio che avrebbe dovuto capire qual era il mood. Qual era il clima, qual era il mood. Quindi secondo me, se partiamo da là, si capisce quanto la crisi italiana e quella europea fossero così strettamente collegate. Io per la verità non credo molto, diciamo, al complotto contro, sì, Berlusconi. Nel libro lo scrivo e credo anche di riuscire a spiegare il mio punto di vista, che ovviamente è un'opinione, non esiste una verità in proposito. Perché dico questo? Perché effettivamente a Deauville non era sotto accusa solo Berlusconi, cioè l'obiettivo di Merkel e Sarkozy soprattutto, e anche di Barroso, non era quello di far fuori Berlusconi, ma di mettere sotto tutela l'Italia. Mm-hmm. Cioè il vero obiettivo era quello di imporre all'Italia un prestito forzoso, preventivo è stato chiamato, del Fondo Monetario Internazionale, che era più o meno di 60-70 miliardi, quindi una cifra del tutto irrisoria rispetto al nostro debito pubblico, e che però per fortuna, insomma, Berlusconi ha resistito, insomma, soprattutto Tremonti ha fatto in qualche modo, certo, un muro contro questa ipotesi, che avrebbe commissariato l'Italia. E poi ci fu la famosa lettera della BCE dell'estate del 2011, che poi anche su questo si è scritto molto, sì, forse non del tutto impropriamente o propriamente, insomma. No, anche questa è un po' misteriosa. Diciamo che su questi argomenti c'è un libro, sono due libri, uno Stress Test di Tim Geithner, che era il ministro del tesoro americano, molto importante per conoscere veramente il punto di vista americano sull'argomento, e l'altro era quello di Zapatero, Il Dilemma, che su questo punto, sulla lettera, dice delle cose molto interessanti, perché in realtà le lettere furono due, una indirizzata a Zapatero stesso e un'altra indirizzata all'Italia. Quella dell'Italia era forse era diversa nei contenuti, ma anche un po' più severa anche nei toni. Io credo che quella lettera in realtà sia stata, come dire, non un ultimatum a Berlusconi, quanto un'ultima sponda, cioè un'ultima ancora di salvezza che gli veniva offerta. Comunque in questo modo fu interpretata dal governo dell'epoca. Sì. Però le divisioni del governo, insomma, ci ricordiamo bene, la maggioranza era limitata, molto fragile, sì. C'era una lite continua fra il ministro del tesoro e il presidente del consiglio, si protraeva da anni. Quindi, insomma, le condizioni politiche del governo non consentirono a Berlusconi di utilizzarla come forse avrebbe potuto essere utilizzata a suo vantaggio. Quindi in qualche modo il processo di decadenza della maggioranza che faceva capo al centrodestra di Berlusconi è iniziato dalla mancata risposta a quelle richieste. C'era anche, ricordiamolo, il veto della Lega Nord sulla riforma delle pensioni, che è stato un elemento importantissimo. E infatti poi gli eventi politici di quelle settimane, lo ricordiamo, portarono, come abbiamo detto poc'anzi, al cambio del governo e all'avvento di Monti e poi tutto quello che accadrà dopo. Bene, noi abbiamo concluso, ringraziamo molto Paolo De Luca per essere stato con noi e averci aiutato a capire meglio quel che accadde in quel 2011.